c'eri tu, ora ci son solo due occhi blu. Lei è bella, sai, forse come tu non sei stata mai. Ma mi spieghi perché guardo lei e penso a te, penso a te. Prima c'eri tu, ora ci son solo due occhi blu come il mare, blu come il cielo, ma non ci sei tu. Sai, forse come tu non sei stata mai. Ma mi spieghi perché guardo lei e penso a te, penso a te. Prima c'eri tu, ora ci son solo due occhi blu come il mare, blu come il cielo, ma non ci sei tu.